Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se c'è una cosa che ci insegna la musica è proprio che nel momento in cui ascolto non ho più paura. E questo è un ricordo struggente di Ezio Bosso, grande musicista, compositore, direttore d'orchestra che se n'è andato oggi a 48 anni. Ve lo ricordate tutti, l'abbiamo scoperto tutti un po' tardi, vi ricordate al Sanremo dell'anno prima con Conti, e conviveva ormai dal 2011 con una malattia degenerativa, e in più sembra che fosse anche ammalato di cancro, quindi insomma ha tirato fuori sempre tanto entusiasmo fino all'ultimo momento nonostante avesse grandissimi macigni addosso, ma è riuscito con la sua musica ad affrontarli. Ne parleremo, lo ricorderemo naturalmente in questa puntata di Effetto Notte, così come inevitabilmente ci soffermeremo sulla fase 2 che stanno cercando di mettere a punto le regioni con il governo. Ci sono state varie riunioni, oggi è stata una giornata veramente frenetica. Le regioni hanno raggiunto tra loro un accordo su un testo base per le riaperture delle attività commerciali da lunedì, che è la seconda tappa, lunedì 18 maggio, della fase 2, e adesso questo testo è sottoposto al Presidente del Consiglio Conte, quindi vediamo se entro la serata o entro almeno la puntata di Effetto Notte riusciamo a capire bene quali sono queste linee guida. Intanto cercheremo di anticipare un po' quali sono gli aspetti critici, quali sono le diverse istanze, e poi ne parleremo anche con uno dei presidenti di regione del Nord della Lega, che è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Torneremo a occuparci di scuola, perché chiaramente non si può ripartire senza immaginare come far ripartire la scuola da settembre, ma soltanto un mese c'è la maturità, l'esame di Stato, 500.000 studenti, in quali condizioni l'affronteranno, insomma come sempre tantissimi argomenti anche quest'ultima puntata della settimana, quindi non perdete neanche un minuto, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. E ricordate, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, altrimenti SMS e WhatsApp sempre al solito numero 349-238-6666, 349-238-6666. L'epidemia di Covid-19 in Italia, cala il numero dei malati, 4.300 meno di ieri, giù anche le terapie intensive, i morti però in un giorno sono 242 e la Slovenia è il primo paese europeo a revocare lo stato di epidemia. Fase 2, i presidenti di regione trovano l'intesa per le riaperture dal 18 maggio, il testo è ora al centro dell'incontro con Conte. A Effetto Notte il presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Maturità, il protocollo messo a punto nella notte e prevede mascherine per tutti e pulizia dell'aula alla fine di ogni sessione. Marghera, esplosione in una ditta di prodotti chimici, due feriti gravi e cittadini chiusi in casa, il fumo su tutta la provincia di Venezia. Addio Ezio Bosso, il musicista e direttore d'orchestra che con la sua musica aveva sfidato la malattia, se n'è andato a 48 anni. Partiamo quindi come sempre dai dati della protezione civile sul coronavirus in Italia. I contagi diminuiscono ma resta comunque alto il numero dei morti e intanto sono 5.000 i guariti in 24 ore. Cresce sempre il numero dei guariti e diminuisce costantemente quello dei ricoverati, ma il numero dei morti in Italia per coronavirus resta alto, 242 in 24 ore, per un totale che ormai supera i 31.600. Anche i nuovi contagi non scendono come si vorrebbe. Ieri ci sono stati altri 789 casi nel paese, anche se il dato in rapporto ai tamponi resta al minimo dall'inizio dell'epidemia. Con 299 nuovi positivi, la Lombardia resta la regione più colpita, seguita dal Piemonte, più 137, e dall'Emilia-Romagna, più 50. Tornando alla Lombardia, anche qui ricoverati in costante diminuzione e in crescita il numero dei guariti. Rimane il doloroso dato dei morti in regione, che sono stati 115 in un solo giorno. Nell'insieme però i dati sono incoraggianti, secondo l'assessore lombardo Foroni. Sentiamolo. Il complesso della situazione è certamente positivo, che quindi ci spinge ad affrontare con coraggio e responsabilità una nuova parte della fase 2. Più 66 positivi a Milano, a Bergamo i nuovi casi sono stati 24, 60 a Brescia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quella di oggi è stata e continua a essere una giornata fitta di incontri fra governo e regioni. Come vi dicevo, governo alle prese col decreto che dovrà stabilire le nuove regole della fase 2 che riguardano riaperture e spostamenti. Lunedì cesseranno le limitazioni sugli spostamenti all'interno della regione di residenza. Saranno possibili anche le visite agli amici e per uscire di casa non servirà più l'autocertificazione. È quanto prevede la bozza del decreto che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare in serata. Nonostante il pressing di alcuni governatori, vengono invece confermate fino al 2 giugno le limitazioni per i trasferimenti fra una regione e l'altra. Saranno consentiti soltanto per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o per far rientro al proprio domicilio. Stando al provvedimento, gli spostamenti interregionali potranno riprendere solo a partire dal 3 giugno e potranno essere limitati soltanto con nuovi provvedimenti legati ad aree specifiche del territorio nazionale. Le regioni potranno anche adottare misure più restrittive in base all'andamento dell'epidemia, tema particolarmente caro ai governatori del Sud. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Si discute quindi delle nuove regole che scatteranno dal 3 giugno, data più vicina a quella di lunedì 18 maggio, con le riaperture degli esercizi commerciali che saranno in regola con le norme sanitarie. Da lunedì prossimo potranno riaprire tutti i negozi al dettaglio, a partire da quelli di abbigliamento, i bar e i ristoranti che oggi lavorano solo per l'asporto, probabilmente anche parrucchieri ed estetisti, palestre e centri sportivi, forse le spiagge. Ma i dettagli sulle regole di sicurezza da rispettare non sono ancora chiari. Saranno i protocolli INAIL non vincolanti usciti in questi giorni o eventuali regole regionali più morbide. Enrico Postacchini, delegato alle politiche commerciali di Confcommercio. Ad oggi, venerdì, non è chiaro come ancora le regioni potranno recepire i protocolli nazionali, soltanto bozze a cui si fa riferimento, e come potranno tradurli in ordinanze. Ci sembra davvero che si stia esagerando sulla pazienza degli imprenditori e di tutto il sistema paese. A far discutere sono soprattutto i 4 metri quadri a testa suggeriti dall'INAIL nei ristoranti, ancora Postacchini ai nostri microfoni. Ovviamente distanza irrealizzabile dentro l'80% dei locali di somministrazione italiani. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E crescono le preoccupazioni delle imprese sulle responsabilità civili e penali per eventuali contagi dei dipendenti. Rassicurazioni in merito alle preoccupazioni delle imprese sulle responsabilità per eventuali contagi dei dipendenti dopo le nuove norme che caricano la responsabilità civile penale sui datori di lavoro in caso di contagio da Covid, vissuto come un aggravio in una situazione già difficile con l'incertezza nello stabilire dove avviene il contagio, arriva la risposta alla valanga di proteste degli imprenditori dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ai microfoni di Radio 24 intervenendo a 24 mattino. Una preoccupazione giusta quella che stanno segnalando gli imprenditori, imprese che rispettano il protocollo e che consentono ai propri lavoratori di lavorare in sicurezza non possono rispondere di contagi che non possono essere dimostrati essere avvenuti all'interno dell'azienda. Credo che sia un principio che è sacrosanto. È giusto che l'impresa metta in condizioni di sicurezza i propri dipendenti, ma quello è il massimo che possiamo chiedere all'imprenditore. L'allarme è partito giorni fa con una proposta di Confindustria per superare il problema e Patuanelli ha sottolineato che il governo e il Parlamento dovranno occuparsi del tema per mettere nero su bianco questo principio. Il governo e il Parlamento si dovranno occupare di questo tema. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo la congiuntura flash del centro studi di Confindustria, il prodotto interno lordo italiano, ricchezza italiana 2020, calerà del 9,6%. Due fattori hanno accentuato la già profonda caduta: il prolungamento per decreto dal 13 aprile al 4 maggio della chiusura parziale dell'attività economica in Italia e un più forte calo della domanda domestica ed estera che frena anche l'attività delle imprese autorizzate a riaprire. E questo è un calo certificato anche dall'Istat. A marzo, primo mese dell'emergenza coronavirus in Italia, l'industria soffre con un calo mensile di fatturato e ordinativi intorno al 26%, valori simili a quelli registrati nel 2008-2009 e quanto certifica l'Istat, evidenziando una contrazione soprattutto nel mercato interno, male in particolare i mezzi di trasporto, bene l'industria farmaceutica. Ad aprile, invariati su base annua i prezzi al consumo, a causa soprattutto della flessione dei beni energetici. Salita i prodotti alimentari. Nella zona euro, confermato per il primo trimestre un calo del PIL del 3,8% rispetto al trimestre precedente e del 3,2% su base annua, flessione più forte dal 1995, spiega Eurostat. Le performance peggiori in Francia, Spagna e Italia, quest'ultima meno 4,7%, l'economia tedesca è crollata di oltre il 2%, riduzione più grande dalla crisi del 2008-2009, sottolinea sottolinea l'Istituto di Statistica. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di maturità, 30 giorni dall'esame di Stato, inizia il 17 giugno, è stato messo a punto nella nota il protocollo che prevede mascherine per tutti e pulizia dell'aula alla fine di ogni sessione. Restano però delle perplessità che già ieri erano state mosse dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e stasera quindi sarà ospite proprio qui il Presidente del Consiglio Superiore dell'Istruzione. All'estero, la Slovenia è il primo paese europeo a revocare lo stato di epidemia, cancellata anche la misura di quarantena per i cittadini sloveni e quelli degli altri stati europei che entrano nel paese e che non abbiano lasciato l'Unione da più di 2 settimane. Festeggia intanto la Cina, che registra un mese senza morti per Covid-19 e ad oggi conta meno di 100 persone ancora ricoverate in strutture ospedaliere in attesa di guarigione. Di nuovo in Italia con la cronaca a Marghera, esattamente per l'incendio di questa mattina in uno stabilimento di prodotti chimici. 2 ustionati in maniera grave, un altro paio di feriti, molti intossicati tra gli operai che erano presenti in fabbrica alla 3V Sigma di Porto Marghera, dove c'è stata un'esplosione spaventosa nell'impianto di produzione di acetone, e poi un incendio che ha fatto scattare l'allarme chimico per la popolazione di Mestre e di Venezia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 e le fiamme hanno finito per avvolgere un'area di 12.000 metri quadri all'interno dello stabilimento. È subito scattato il piano di emergenza per la possibile dispersione di sostanze chimiche in aria. I cittadini di tutto il comune di Venezia e anche di alcuni comuni limitrofi sono stati invitati a rimanere in casa con le finestre chiuse fino al cessato allarme, che è arrivato dopo le 14. L'allarme per ora sembra rientrato, ma solo quando si sapranno gli esiti delle analisi si potrà valutare l'entità del danno per la salute pubblica. Intanto torna in primissimo piano la questione della sicurezza del polo chimico di Marghera. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Per quanto riguarda il meteo, poi avremo modo di parlarne più tardi, come sempre a fine puntata il venerdì. Molti disagi sono stati nella zona nord di Milano, un po' su tutta la città, ma in particolare nella zona nord di Milano, per l'esondazione del fiume Seveso dovuta al nubifragio che ha colpito la città nella notte, vie allagate e quartieri in blackout. Addio a Ezio Bosso, musicista, direttore d'orchestra, grande compositore che con la sua musica aveva sfidato la malattia, se n'è andato nella sua casa di Bologna a 48 anni e lo ricorderemo nel corso di questa puntata. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E anche a fine settimana una puntata ricchissima di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che ho appena chiuso e poi gli approfondimenti che adesso invece cominciamo con gli ospiti. Sempre Roberta Giordano con voi ad accompagnarvi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 a farvi questo quadro il più chiaro ed esauriente possibile a fine giornata, in modo che sappiate tutto quello che di più importante c'è da sapere. Vedo i vostri messaggi man mano sul SMS WhatsApp al 349-238-6666 e poi la pagina Facebook di Effetto Notte. C'è per esempio questo ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, che parlava della preoccupazione, dice se vado a cena ti porto fuori a cena, è come se fossi davanti a uno sportello, a me non va. Questo a proposito delle abbastanza rigide misure che l'INAIL prevede per la riapertura delle varie attività commerciali, a partire naturalmente da bar e ristoranti, misure di sicurezza che in parte vengono contestate anche dai presidenti di regione e che adesso appunto stanno ancora confrontandosi con il presidente del Consiglio Conte per capire come effettivamente riaprire le varie attività commerciali, in quali condizioni, a partire da lunedì, che sapete 18 maggio inizia la seconda fase della fase 2. C'è una positiva collaborazione istituzionale con regioni ed enti locali per misure chiare che garantiscano sicurezza ai cittadini italiani, a tutti i lavoratori e a tutte le imprese. E questo il ministro degli affari regionali Boccia, che sta tentando da diverse settimane questa difficile mediazione tra le regioni e tra le regioni e il governo, il presidente del Consiglio. Adesso man mano vediamo se arrivano degli ulteriori aggiornamenti in serata, perché vi dicevo dall'inizio appunto che sono momenti febbrili. Questa è stata una giornata di frenetica attività, ma anche insomma nelle ultime giornate di confronto politico-gestionale appunto tra governo e regioni, per stabilire le tanto attese linee guida da adottare una volta che appunto lunedì si debba ripartire con questa seconda tappa della fase 2, con le varie riaperture delle attività commerciali. C'è stato un vertice questa mattina, nel pomeriggio c'è stata una nuova videoconferenza tra governo e regioni. Intanto saluto, prendendo fiato, Barbara Fiammeri. Cara Barbara. Ciao, buonasera a tutti. E gli incontri dovrebbero ancora proseguire in queste ore, che io sappia. Barbara, dimmi solo sì o no. Sì, molto bene, è stata telegrafica. Barbara, allora ne parleremo poi tra l'altro tra poco con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ma prima ne voglio riflettere con la nostra Barbara Fiammeri. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato su Twitter che, leggo, le regioni unite con un grande lavoro di squadra e con l'unico obiettivo del bene comune, senza colori, hanno elaborato un documento unitario con linee guida condivise per le categorie economiche che da lunedì potranno riaprire. In serata, dice ancora Toti, continuerà il confronto con il governo per arrivare nelle prossime ore a tracciare una seria via che dia certezza agli imprenditori, ai lavoratori e a tutti i cittadini. Questo scrive su Twitter Toti. Però Barbara, è sicuramente un'operazione questa molto complessa, no? In un lungo periodo difficile bisogna riaprire, ma il nemico è sempre fra noi. Allora, andiamo con ordine. Sì. Il problema qual era? Il problema principale era che, visti i protocolli di sicurezza dell'INAIL, quelli che stabiliscono le distanze tra i lettini piuttosto che tra i tavoli del ristorante, o gli ingressi, come avviene l'ingresso nei bar, o come ci misureremo i vestiti nei negozi, queste misure erano state ritenute così stringenti da far dire, non solo le critiche forti dei governatori, ma anche da far dire agli stessi esercenti che a queste condizioni era meglio non riaprire. Rispetto a questa situazione crescente, le regioni questa mattina, dopo un primo incontro con il governo, hanno deciso di dotarsi di un protocollo di sicurezza unitario che stabilisce di fatto quali saranno le prescrizioni da lunedì in poi. Quindi, per esempio, gli ombrelloni dovranno avere uno spazio di 10 metri quadri, quindi non ci saranno più 4 metri, 5 metri tra un ombrellone e l'altro, ma ogni ombrellone dovrà avere 10 metri, un'area di 10 metri quadri. Mm. Quindi tra un lettino e l'altro, vado a memoria, ci sarà un metro. Nei tavolini non 2 metri come prevedevano i protocolli INAIL, ma uno. Cioè tutta una serie di prescrizioni sono state decisamente ridotte e allentate. Ma questo scusami, nella proposta delle regioni o già dall'INAIL? Non ho capito, scusa Barbara. No, questa è la proposta delle regioni. L'accordo che le regioni hanno fatto, hanno stilato e loro hanno presentato questa sera. Si sono riviste con Conte, con il ministro Boccia, con il ministro Speranza, si sono riviste e gli hanno detto: noi facciamo questa proposta, adottiamo tutti un unico protocollo e tu governo però gli devi dare, come dire, lo devi legittimare, perché il rischio che temevano le regioni qual era? Nei giorni scorsi abbiamo sentito: l'Emilia mette 1 metro per i tavolini, il Veneto vuole dare 2 metri per gli ombrelloni. Ognuno vada per conto suo. Uno è questo il rischio. Ma non c'era solo un problema di caos per noi poveri utenti, ma c'era anche un problema di responsabilità. Doverne rispondere, certo. Certo, se succede qualcosa. Un domani qualunque cosa succedeva, qualcuno poteva dire: ma scusa, ma c'erano i protocolli nazionali, tu governatore della Lombardia piuttosto perché che delle Marche, perché non l'hai adottato? Allora i governatori hanno hanno preso una linea unitaria tutti e hanno presentato al governo questa proposta. Il governo, nel decreto legge che sta per approvare, perché c'è, non so neppure se è iniziato in questo momento, credo ancora di no, il Consiglio dei Ministri che era convocato per le 9 di questa sera, ma credo non sia ancora iniziato, approverà un decreto legge, quindi non un DPCM, ma un decreto legge, in cui che cosa si stabilisce? Si stabilisce che i protocolli decisi dalle regioni o dalla conferenza delle regioni si possono applicare e che quelli nazionali famigerati, quelli INAIL, sì, entrano in gioco solo in supplenza, cioè se questi protocolli qualcuno non li vuole adottare, allora dice non è che non puoi non adotti nulla. Ma se quindi non scusami quello Barbara, regionale, delle regioni adotti cioè quello nazionale. Però a questo punto se uno adotta quello regionale che hanno messo insieme, messo a punto le regioni e succede sì, qualcosa, visto che comunque un po' si distanzia da quello nazionale, che succede? A questo punto, siccome c'è una norma di un decreto legge, cioè parliamo di una norma primaria, mm-hmm, che dice esplicitamente, cioè io ho letto, ancora stiamo parlando di un testo in entrata in Consiglio dei Ministri, bisogna vedere come esce, ma comunque il testo in entrata dice chiaramente che si adottano i protocolli e le linee guida regionali e che in assenza di queste entrano in gioco quelli nazionali. Quindi è una specie in questa bozza di approvazione quindi da parte del, diciamo del governo. Che il governo abdica, abdica alle richieste delle regioni. E come vedi, positivo o negativo? Però, c'è una condizione che il governo pone, che è quella di assolutamente come dire nel trasferimento dei dati sul monitoraggio sanitario fondamentale, sulla base dei parametri indicati dal ministro Speranza nella famosa circolare di fine aprile, se non sbaglio, cioè laddove si diceva appunto che ci sono tutta una serie di parametri che servono proprio a verificare come si sta evolvendo la curva epidemiologica. Perché questo? Perché qualora si riscontrassero come dire degli aumenti dei contagi dei casi, a quel punto l'intervento dovrebbe essere tempestivo, ma soprattutto ci dovrebbe essere non solo un intervento tempestivo ma una risposta anche della struttura sanitaria del luogo in cui si verifica questo contagio, no? Insomma Barbara, quindi vogliamo un po' dire che il governo ha cercato qui di tenere un po' le fila a questo punto sulla pressione, dopo la pressione delle regioni, sta dicendo vabbè, se tutte siete d'accordo su questo tipo di protocollo, di misure eccetera, fate pure, però mi raccomando, se succede qualcosa, se i contagi aumentano, no, interviene si il governo a quel punto, appunto. Se la regione non dovesse prendere, cioè su questa cosa del monitoraggio, significa il governo, questi dati devono essere trasferiti al Ministero delle Sanità, all'Istituto Sanitario Nazionale, se la regione deve intervenire, se non interviene lì subentra il governo, non è che la regione dice io non intervengo perché voglio mantenere i parrucchieri aperti, certo, e lo può Barbara, fare. Barbara, però mi risulta che alcune regioni del sud, in particolare la campagna di Vincenzo De Luca, se hanno raggiunto questo accordo, evidentemente la cosa è stata superata. Era piuttosto contrario al fatto che, per esempio, una regione come la Lombardia potesse avere gli stessi protocolli, le stesse possibilità di aperture, eccetera, di regioni che hanno meno contagi. Per esempio, c'è questa ascoltatrice, poi mi rispondi, che dice: Anna, desidero esprimere un'opinione sulla riapertura di Milano, zona ancora molto critica. Ho paura per loro, ma a causa di quelli che penseranno solo all'aperitivo e come si fa a controllare. Dico, premetto che Milano e i milanesi non è che sono fatti solo di aperitivo, che tutti vogliamo fare soltanto l'aperitivo. Questo è un aspetto, insomma, che ha reso Milano da Milano da bere dagli anni Ottanta, ma insomma, comunque, a parte l'aperitivo ormai si fa dappertutto, però diciamo, non è questo il problema. Dicevi, Barbara? No, vorrei rispondere in di là che la Lombardia senso, sia ancora la regione più colpita. La preoccupazione di De Luca, e questo è un tema, così anticipiamo il tema, Roberta, della prossima settimana, lo anticipiamo. Caspita, perché dopo esclusiva mondiale, di come qua vanno le riaperture, poi parleremo di come stanno andando i contagi, perché diciamolo già ai nostri ascoltatori, i contagi cresceranno perché in questo momento ancora i dati che noi tutte le sere sentiamo al telegiornale sono quelli, diciamo, relativi, anche se sono i dati nuovi, ma contagi che si sono effettuati prima durante della prima ripartenza del 4 maggio, no? I dati veri arriveranno la prossima settimana, cioè lì ci accorgeremo quanto davvero i 4 milioni di lavoratori che sono tornati in attività hanno pesato sulla curva epidemiologica. Però detto questo, ritorniamo a De Luca. Allora, la preoccupazione qual è? Dice la Lombardia non è, in questi giorni sentivo sempre la frase, la Lombardia non è la Basilicata. D'accordo, la Lombardia non è la Basilicata, e gli stessi governatori dicevano lasciateci decidere a noi, quanto abbiamo sentito questa frase, lasciateci decidere a noi. Ora, queste linee guida non è che stabiliscono cosa riapre, stabiliscono quali sono i criteri delle riaperture, cioè dice che i tavolini devono essere a un metro e non a due, ma poi se Zaia piuttosto che Fontana decidono di riaprire o meno i ristoranti è una scelta loro. Cioè, non è che il governo dice dovete riaprire, tant'è che è possibile che noi troveremo alcune riaperture in alcune regioni ed altre magari aspetteranno. Per esempio, a me risulta che nel Lazio le spiagge non riaprono né lunedì e probabilmente non è detto la settimana successiva, mentre in altri posti apriranno il 25. Quindi ci sono per una esempio serie... la Liguria, infatti Barbara, ci saranno delle differenziazioni. Il tema che ti volevo anticipare invece ritornando a De Luca, è che è il tema degli spostamenti tra regioni, perché il decreto che questa sera verrà approvato dal Consiglio dei Ministri, che sta per essere approvato, prevede che conferma che gli spostamenti tra regioni si potranno verificare solo a partire dal 3 giugno, quindi dopo il ponte del 2, perché il timore era quello dell'esodo, ovviamente. Certo. Però ma non è questa l'anticipazione mondiale, Barbara? Dal sud e che dal nord vengano, come dire, si va verso il sud, verso i paesi caldi, come si dice. E quindi lì potrebbe esserci, perché il decreto lo consente, il decreto che si approverà questa sera, che proprio su questo aspetto potrebbero esserci delle decisioni da parte delle regioni restrittive. Sì. Potremmo dire no, tu non entri. Barbara, però ti do un'altra notizia anch'io, facciamo questo scambio allora di notizie. In realtà lo vedo adesso da Repubblica, che dice dal 3 giugno l'Italia non solo appunto riapre, no, la possibilità, come appena detto, di circolare tra regioni, ma riapre le frontiere sia agli arrivi dall'Unione Europea senza quarantena. A me detta così mi sembra una follia, nel senso che stiamo aspettando il 3 giugno per riuscire almeno tra le regioni, c'è chi chiuderà, chi invece sarà più tranquillo, eccetera, si circolerà tra le regioni e si riapre le frontiere Da per cittadini dall'Unione Europea che arrivano senza quarantena, così non lo so. Sì, la vita è vero. Adesso comunque è vero, cioè nel decreto questo è previsto nel testo che sta entrando in Consiglio dei Ministri, poi quello che è e che uscirà non lo so, però nel testo d'entrata è previsto questo, cioè è previsto che oltre alla circolazione tra regioni ci sia anche la possibilità di rientri in Italia o di uscite da e per. Però mi sembra un po' paradossale che si stia arrivando coi piedi di piombo fino al 3 giugno per non far circolare le persone tra regioni così liberamente, e alcune, come dicevi, saranno un po' più restrittive, addirittura si apre le frontiere ai cittadini dell'Unione Europea e farli entrare così senza quarantena. Staremo a vedere, Barbara. Aspetta, ti posso dire una cosa? Dimmi, tu Barbara. Credi che ci sarà questa corsa a rientrare in Italia? A me sembra che... Io non penso che noi avremo le file al Brennero per degli austriaci per entrare in Italia. Ma vediamo tra l'altro se invece lo liberano loro il Brennero e ci consentiranno di andare in Austria. Comunque, sicuramente ci sarà la possibilità per tante persone che sono fuori, mio figlio ad esempio, che io non vedo l'ora di rivedere, ecco, è Barbara che ha premuto affinché dal 3 giugno dall'Unione Europea possano rientrare, la potente lobby delle mamme questa. Bene, cara Barbara, allora cara mamma Barbara, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro un buon fine settimana e ci aggiorniamo. Grazie presto. A voi, buonasera. Ciao Barbara. Allora, ancora tanti vostri messaggi, vedo, chiede a questo ascoltatore, parla di Ezio Bosso, me lo ricordo qualche mese addietro, nella mia Bologna, dice, leggiamo anche questo ricordo di questo ascoltatore, di Andrea, dice Bologna in piazza Santo Stefano, che è una piazza bellissima, seduto al tavolo del Deor di un locale, fogli pentagrammati, matita, assorto nei suoi pensieri musicali o chissà cosa, molto intenso, scrive Andrea a proposito di Ezio Bosso nelle sue riflessioni sul saper ascoltare, molto bravo come interprete, ma anche, dice, noiosissimo come compositore, una specie di Levi, sono un po' più elegante. Vabbè, non vuol fare il buonista a tutti i costi, Andrea è rimasto rapito dall'immagine di Ezio Bosso lì a piazza Santo Stefano a Bologna, però evidentemente non ne apprezza più di tanto la musica, e questi sono gusti personali. Comunque, al di là di tutto, 349-238-6666 i vostri messaggi per SMS e WhatsApp, più WhatsApp vedo naturalmente come sempre ormai è diventato il mezzo privilegiato, insieme alla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra pochissimo, a proposito di presidenti di regione, della fase 2 delle linee guida, ci sarà e dovremo raggiungere almeno il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera. Roberta Giordano per voi a comporla e a suonarla insieme agli ospiti. Abbiamo appena parlato lungamente con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore dell'accordo raggiunto, come scriveva su Twitter il presidente della Regione Liguria Toti, tra le regioni per presentare le loro proposte di linee guida per le riaperture delle attività commerciali dal 18 maggio al presidente del Consiglio Conte. E sembra che ci sia stata un'apertura, da quello che ci diceva la nostra commentatrice politica, sul fatto che ci siano un'autonomia decisionale da parte delle regioni, che abbiano loro elaborato un protocollo per le misure di sicurezza per le varie attività commerciali, anche se poi, dice Conte, secondo quanto ci ha spiegato Barbara Fiammeri, coloro che non vorranno aderire a questo protocollo messo insieme dalle regioni possono sempre rifarsi alle indicazioni dell'INAIL, che alle regioni evidentemente sembrano troppo stringenti. Ma allora coinvolgiamolo direttamente, un presidente di regione come Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Buonasera presidente, bentornato. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, intanto com'è la situazione dei contagi, dei decessi in questo momento nella sua regione, Fedriga? Beh, abbiamo dati molto buoni. Noi da inizio epidemia abbiamo fatto delle scelte di una chiusura immediata molto forte, proprio con l'obiettivo di ripartire prima. E questo devo dire che ha permesso di oggi trovarsi in una situazione molto buona. Siamo l'unica regione, oltretutto del nord Italia, che è considerata tra le aree verdi, per capirci, cioè quelle aree come nel mezzogiorno, dove sia il numero di contagi sia l'aumento di contagi è contenuto. Quindi per fortuna state bene, ma questo accordo che è stato raggiunto tra le regioni per appunto le misure di sicurezza, i protocolli da adottare per l'apertura delle attività commerciali dal 18 maggio, quindi la trova d'accordo, siete tutti d'accordo, come scriveva Toti? No, guardi, abbiamo fatto proprio, è stata una richiesta unanime di tutte le regioni, ho partecipato proprio a tutti ovviamente gli incontri odierni e ho spinto anzi perché venisse fatto un protocollo unico, delle linee guida uniche a livello nazionale, così da poter intanto far vedere che le regioni sanno collaborare, sanno lavorare insieme, sanno portare proposte costruttive, ma soprattutto dare una risposta a tutto il mondo produttivo che necessita di linee guida che possano essere attuabili, altrimenti rischiavamo semplicemente di avere delle linee guida bellissime sulla carta, ma di fatto che impedivano le riaperture delle attività commerciali. Quindi voi non è proprio l'andare in deroga rispetto alle indicazioni dell'INAIL, è un accordo che avete raggiunto tutti insieme e sul quale effettivamente c'è stata l'apertura di Conte, Fedriga? Sì, sì, il presidente Conte ha detto che c'è una condivisione, per adesso informale, che verrà formalizzata nella discussione all'interno del Consiglio dei Ministri, quindi le espressioni del Presidente del Consiglio sono state di condivisione della nostra proposta. Oggettivamente quando 20 regioni italiane da nord a sud di appartenenza politica diversa propongono un documento come questo, credo che difficilmente si possa dire di no, perché facciamo vedere che i territori conoscono molto bene le realtà produttive, noi siamo confrontati anche negli scorsi giorni con tutte le categorie economiche e siamo riusciti a portare avanti una cosa che possa tutelare la salute ma al contempo possa permettere la ripresa delle attività economiche. Senta, presidente Fedriga, riesce a riassumere giusto i punti principali di questo vostro accordo rispetto alle indicazioni dell'INAIL? È complicato, però diciamo che noi tocchiamo, per capirci, la parte della ristorazione, la parte delle attività turistiche, quindi la balneazione, le strutture ricettive, quindi alberghi e quant'altro, i servizi alla persona come parrucchieri e estetisti, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, quindi mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, gli uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione di alberghi, musei, archivi e biblioteche. Quindi sono tutte cose che per esempio Regione Friuli Venezia Giulia riaprirà lunedì. Quindi voi vi prendete comunque questa responsabilità, no, di autonomia decisionale. Qualcuno, qualche detrattore magari del governo, avevo letto qua e là, definisce uno scaricabarile, un passare la patata bollente dal governo, da parte del governo alle regioni, dire va bene, fate come credete, se questo è il vostro accordo. Poi per quanto riguarda la responsabilità dei vari presidenti di regione, se succedesse qualcosa, se aumentassero i contagi, cosa succede, Fedriga? Ma guardi, il governo ha detto che non so se nel decreto legge o nel DPCM che emanerà dirà che queste linee sono conformi alle linee guida nazionali. Quindi di fatto c'è una piena consapevolezza sia da parte delle regioni che del governo che in questo momento è necessario dare delle risposte concrete. altrimenti se ragioniamo a forza di scarica barili, le regioni oggi avrebbero potuto dire benissimo applichiamo le linee guida INAIL, ce lo impone il governo, avrebbe fatto infuriare tutto il mondo produttivo e noi avremmo fatto i capipopolo dicendo avete visto che cattivo che è questo governo. Invece ci siamo messi davanti ai nostri territori, alle nostre realtà produttive, ai nostri imprenditori dicendo che dalle regioni vogliamo dare delle risposte alle singole attività. E su questo penso che siamo riusciti molto bene con una consapevolezza che, ribadisco, riguarda tutte le regioni italiane. Sembra banale dirlo, ma guardi, difficilmente si trova un accordo tra 20 regioni con sensibilità diverse, peculiarità diverse, magari indirizzi politici diversi. Oggi abbiamo trovato un accordo unanime e questo penso sia da riconoscere da parte dell'opinione pubblica sicuramente, ma ancora di più da parte del governo. Vero, finalmente tutti d'accordo, anche se all'inizio, Federica, mi sembrava che soprattutto dal sud, in particolare il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, frenasse un po', per esempio quando il presidente della regione Lombardia, Fontana, diceva vogliamo delle misure univoche per tutti, delle linee guida univoche, si era un po' preoccupato De Luca dicendo, no, perché noi siamo quelli che per il momento stanno piuttosto bene, i livelli di contagi bassi eccetera, non possono esserci misure uguali per tutte le regioni con livelli di contagio diversi, quindi anche questo scoglio è stato superato. Sì, ma poi oltretutto le linee guida che proposte dalle regioni sono il minimo comune denominatore che riguardano tutti, poi se qualche territorio vorrà prendere misure più stringenti e riterrà di optare per soluzioni di maggior tutela e maggior restringimento lo potrà fare ovviamente tranquillamente. Questo è un documento che vale per condiviso da tutte le regioni, quindi non è un'imposizione nazionale, è una condivisione tra i territori e questi sono gli strumenti che funzionano, che non creano attriti ma danno soluzioni. Senta, leggevo appunto che dal 3 giugno, a parte che dovrebbero riprendere la possibilità di circolazione insomma delle persone tra le diverse regioni italiane, però si prevede anche che ci siano degli arrivi, cioè l'apertura delle frontiere dell'Italia e quindi arrivi dall'Unione Europea senza quarantena. Cosa ne pensa di questo aspetto, Federica? No, credo che sia necessario adesso trovare delle misure di carattere europeo che non penalizzino un paese rispetto a un altro. Le faccio un esempio sulla questione dei corridoi turistici. Sarebbe drammatico se l'Italia fosse esclusa da tutta questa, diciamo, ciclo del turismo, indotto del turismo, sarebbe drammatico. Vedo che ci sono dei paesi che fanno accordi con la Croazia, tra Croazia, Germania, Austria e quant'altro, sarebbe molto grave se noi fossimo esclusi. Con il buon senso, io continuo a ribadire, noi dobbiamo passare in questa fase 2 dalla stagione dei divieti a quella delle regole. Se le regole possono essere attuate, ovviamente sono regole di buon senso, come credo siano quelle che abbiamo scritto nelle linee guida, allora è inutile dire alle persone non puoi fare qualcosa. Bisogna dire alle persone come bisogna farlo, così da garantire la salute, ma al contempo garantire anche che l'attività economica e lavorativa in questo paese riprenda. Federica, i friulani finora l'hanno ascoltata, quindi sono comportati secondo le regole, secondo le indicazioni. È contento? È orgoglioso? Ma guardi, i numeri del Friuli Venezia Giulia non sono dovute semplicemente alle ordinanze che ho emanato, anche quelle più restrittive, come ho detto all'inizio, ma è dovuto al grande senso di responsabilità ed anche senso di comunità che hanno dimostrato i cittadini di questa regione. Perché uno, l'ho detto anche più volte al governo, anche quando c'era questa diatriba riapriamo o non riapriamo. Quando vengono fatte scelte come questo, di questo tipo, che limitano la libertà delle persone, o c'è una condivisione con la popolazione oppure saranno fallimentari, perché se la popolazione non lo percepisce, dopo non le rispetta o cerca comunque di superarle in qualche modo. Poi c'è stata una grande condivisione, penso, nelle scelte. In una prima fase c'è stato un grande rispetto delle regole, e anche in questa seconda fase tutti, guardi, mi hanno detto dateci delle regole ovviamente applicabili e tutti vogliamo rispettarli. Non credo che ci sia qualche imprenditore, qualche negoziante, qualche cittadino che si diverta ad ammalarsi o far ammalare qualcuno. Semplicemente c'è la gente che chiede misure di buon senso. E devo dire che delle volte questo buon senso è un po' mancato, come quando diciamo che una persona può andare ad incontrare i parenti fino al sesto grado, cioè quindi per capirci, i miei figli possono incontrare i figli di mia cugina, che penso che abbiano visti una volta nella loro vita, ma non possono incontrare il loro padrino o io non posso incontrare il mio testimone di nozze. che magari è un amico della vita. Ecco, su queste cose qua mi sembra che il buon senso sia un pochino mancato e quindi non sia stato compreso dai cittadini. Federica, quindi adesso da un punto di vista emotivo, che è emozionato per queste riaperture della sua regione, oltre alle altre dal 18, cosa si augura? Io sono molto contento di rivedere la mia terra che riparte, la mia comunità che rimette i ferri al lavoro. È chiaro che su questo bisogna sempre utilizzare la cautela dovuta. Presumo che qualche aumento di contagio possa esserci, però devo dire che abbiamo organizzato in maniera poderosa, penso mai come è avvenuto nella storia, un potenziamento anche di tutto il sistema sanitario. Pensi che abbiamo iniziato con 29 terapie intensive dedicate a Covid, oggi possiamo arrivare con il nostro piano a più di 150. Abbiamo 3 ricoverati oggi in terapia intensiva per Covid in tutta la regione. Abbiamo potenziato i posti letto in ospedale, siamo tra le regioni che fanno più tamponi, malgrado siamo una regione da 1.200.000 abitanti. E adesso potenzieremo ancora quel percorso per tracciare ovviamente tutti i contatti e quindi prevenire la diffusione di nuovi focolai. Quindi è un sistema che ha funzionato e questo ribadisco. Guardi, io dico veramente senza voglia di fare l'umile a prescindere, ma è stato dovuto alle grandi professionalità che nella mia regione ho trovato, dal sistema sanitario alla protezione civile, che hanno lavorato giorno e notte e sono riusciti a trovare delle soluzioni, delle volte anche innovative, per dare risposta a questi problemi. Bene, allora buona ripartenza Massimiliano Federica, lei e la sua regione. Grazie di cuore e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie, a presto. Allora, adesso c'è la viabilità, ci ritroviamo a momenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, Roberta Giordano sempre con voi. Dice Betta: Ezio Bosso era torinese, non bolognese, evidentemente parlando velocemente, non so se io o un ascoltatore ci siamo confusi naturalmente, torinese Ezio Bosso. Adesso parlavamo appunto, ne abbiamo appena parlato col presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, del difficile raggiungimento di un'intesa che però è stata raggiunta tra le 20 regioni italiane sulle linee guida da seguire con le riaperture delle attività commerciali dal prossimo 18 maggio, quindi da lunedì. Adesso è ancora riunito il Consiglio dei Ministri, dovrebbe essere ripresa la riunione e capiamo quale sarà il decreto legge che emanerà il Consiglio dei Ministri e quindi poi il Presidente del Consiglio Conte per quelle che sono linee guida considerate nazionali. Però è chiaro che finora parlato di attività produttive, di imprese, di negozi, ma un altro settore fondamentale che produce formazione, istruzione, educazione, cultura, senza il quale non c'è né presente ancora meno futuro, è senz'altro la scuola. A parte come si potrà ripartire a settembre, che insomma diciamo è un argomento abbastanza in questo momento che preoccupa, però siamo a un mese dalla maturità, dall'esame di Stato. Ieri ne avevamo brevemente parlato qui Effetto Notte col portavoce dei presidi, in rappresentanza dei presidi italiani, Mario Rusconi, perché il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, composto da dirigenti scolastici, docenti, sindacalisti, esperti delle istituzioni pubbliche, ha espresso ieri due raccomandazioni di cui vi parlavo sull'ordinanza della ministra Azzolina. Chiede di togliere per quest'anno il voto agli alunni delle scuole elementari, sostituendolo con i giudizi, ma soprattutto per quanto riguarda l'esame di maturità che comincerà il 17 giugno, che sia realizzato con un protocollo di sicurezza nazionale definito stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto. Altrimenti, diceva il Consiglio Superiore dell'Istruzione, meglio affidarsi a un esame a distanza. Allora ne parlo direttamente col Presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Francesco Scrima, che saluto. Buonasera Presidente. Buonasera. E grazie della disponibilità. Senta, grazie, se non sbaglio, risulterebbe che stanotte il Comitato Tecnico Scientifico abbia lavorato appunto alle regole per svolgere l'esame di Stato in aula, in presenza, per mettere appunto questo protocollo da seguire. Si comincia appunto, dicevo, il 17 giugno, tutti con la mascherina, mentre in un primo tempo la ministra Azzolina aveva detto non c'è bisogno se si è distanziati, e poi, quindi commissari, presidente, anche il candidato, si entra uno alla volta e le pulizie dell'aula verranno fatte alla fine di ogni sessione, cioè ogni sera. Che ne pensa, Presidente Scrima, di questo protocollo intanto? Ma penso che siano delle precauzioni molto importanti. È stata coinvolta anche la stessa Croce Rossa, bisogna fare di tutto al fine di assicurare le più rigorose condizioni di sicurezza per gli alunni e per tutto il personale che è coinvolto in queste operazioni di fine d'anno. Purtroppo le regole le detta le autorità scientifiche e sanitarie, a quelle ci dobbiamo adottare. Noi lo abbiamo espresso chiaramente in premessa ai nostri pareri. Perché le condizioni di sicurezza sono indispensabili, perché c'è di mezzo la salute delle persone. Per questo abbiamo chiesto, ma era anche riferito all'inizio del prossimo anno scolastico, va bene, non solo la partecipazione nella parte finale della fine del percorso scolastico, ma considerato anche quelle che sono le riflessioni che fanno gli scienziati, che ci dicono che non è che tutto finirà e subito, bisogna attrezzarsi e prepararsi per l'apertura del nuovo anno scolastico. Intanto cerchiamo di gestire al meglio la fine dell'anno scolastico, in condizioni di sicurezza, con la sanificazione dei locali scolastici e con la collaborazione, così come è stato scritto nello stesso documento, con la collaborazione di tutti, sia da parte degli studenti sia anche da parte di tutto il personale. Presidente, Scrima, corresponsabilità da questo punto di vista. Invece, senta, per quanto, appunto, visto che citava poi l'inizio, la ripartenza del nuovo anno da settembre, secondo lei ci sono tutti gli elementi per essere abbastanza ottimisti al momento? Ma guarda, l'ottimismo ce lo devono suggerire le autorità scientifiche e sanitarie, quali non è che ci stanno dando delle indicazioni su una data in cui. Certo, ma per quanto riguarda le misure, ritiene che le scuole italiane siano pronte? Allora, per quanto riguarda le misure, bisogna intervenire in termini strutturali e organizzativi, perché se si dovesse essere un rientro a scuola, che sia un rientro contingentato, che sia un rientro a distanza di sicurezza, la maggior parte delle nostre strutture scolastiche non sarebbero in grado di attivare percorsi formativi nelle condizioni attuali. Lei pensi alle nostre classi e lei al numero degli alunni per classe, lei pensi ai nostri istituti, al numero degli alunni dei nostri istituti. Quindi bisogna attrezzarsi prima, sia in termini di strutture scolastiche, sia anche in termini di organizzazione della vita scolastica. Mi pare che gli esperimenti, uno degli ultimi che stavano facendo il Politecnico di Torino, se indicano che in una classe di 30 metri quadrati non ci possono stare più di 9 alunni, lei si immagina che cosa potrebbe succedere. Certo, immagino in che tutte quindi le nostre istituzioni scolastiche ci sia ancora molto lavoro da fare, naturalmente. Molto lavoro da fare, tanti investimenti, perché come dicevi all'inizio, ricordiamoci che anche superando la fase di emergenza, la nostra scuola è la più grande fabbrica di futuro. Chiaro. Quindi se gestiamo bene il presente ci possiamo anche guardare al futuro con molta fiducia. Grazie Presidente Francesco Scrima. Grazie a voi. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Ricordo, Presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Parla proprio di muoversi, che poi è la radice della parola emozione. A lui piaceva camminare. Ora capisco che non porto acqua al mio mulino, ma anche a me piace camminare con la musica. Era un uomo così speciale e straordinario, Ezio Bosso, ancora prima di essere un musicista, un compositore, un pianista, e se n'è andato, vi dicevo, a 48 anni per questa malattia neurodegenerativa. Ne voglio parlare con Marta Cagnola. Ciao Marta, la nostra Marta Cagnola. Ciao Roberta. Perché lo abbiamo scoperto così tardi? Cos'è, due anni fa praticamente, al Festival di Sanremo, Marta? Allora, in realtà lui suonava da molti anni ed aveva addirittura debuttato con gli Statuto, un gruppo torinese che poi diventò famoso anche per il Festival di Sanremo. Aveva registrato con loro il primo album perché aveva studiato in conservatorio con il cantante degli Statuto, quindi in realtà aveva già debuttato da molti anni, aveva esordito come solista in realtà in Francia, poi aveva girato molto l'Europa, aveva cominciato a studiare a Vienna, era un concertista, lo conoscevano gli appassionati di un certo tipo di musica. Poi cosa è successo? Lui ha cominciato ad affrontare questa malattia terribile che aveva scoperto 9 anni fa. Aveva una malattia neurodegenerativa che non era la SLA, era un altro tipo di malattia, ma che gli aveva impedito intanto prima di camminare e poi man mano, certo, poi man mano di suonare. Purtroppo da un anno non poteva più suonare il pianoforte, aveva cominciato a fare anche il direttore d'orchestra, poi solo il direttore d'orchestra, poi anche la divulgazione in televisione. Ma era stato proprio quel Sanremo con Carlo Conti a farlo conoscere, a far conoscere Ezio Bosso da un pubblico molto più ampio di quello che lo apprezzava nei suoi concerti e come pianista. Anche perché aveva, nonostante tutto, una presenza scenica straordinaria, no Marta? Guarda, ti posso dire che il mio ricordo più bello è che lui era una persona estremamente simpatica, estremamente divertente, gli piacevano molto anche le belle donne, quindi corteggiava, era sempre carino, era sempre spiritoso, quindi viveva con una leggerezza, uno stato fisico talmente pesante che questa cosa faceva cambiare istantaneamente la prospettiva e la visione di chiunque lo incontrasse, ancora prima delle sue abilità da musicista e poi da divulgatore, perché il suo modo di porsi affascinava e incantava subito chiunque. Vero, aveva questa forza particolare oltre alla sua musica. Grazie Marta Cagnola di aver ricordato Ezio Bosso. Grazie. A presto, grazie. Ciao, buon fine settimana. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale. Allora, Paolo Corazzo di Trebi Meteo, questa o è primavera o non è. Qui a Milano ci siamo allagati, sì? Allora, in realtà la primavera è fatta purtroppo anche di questi episodi. Certo, quello che è successo ieri sera a Milano è davvero particolare, perché in una sera sono caduti 170 mm di pioggia, è la pioggia di 2 mesi, comunque più di quella che era caduta all'inizio dell'anno oggi, figurati te. Praticamente quindi avevo i remi, tornando dal lavoro in macchina avevo i remi, non stavo bene. Sì. Impressionante, tanti disagi ma tanti danni soprattutto. Però ecco, nel weekend non avremo situazioni del genere, per fortuna, anche se al nord rimarrà un po' variabile il tempo, soprattutto domani, quindi un po' di nuvole ci saranno ancora, qualche acquazzone riuscirà ancora a farlo, ma fenomeni di breve durata, insomma nulla di grave, e anzi già un po' di sole iniziamo a vederlo. E domenica ulteriore miglioramento, domenica dai al nord anche 26-27 gradi. Il centro-sud avrà un weekend nel complesso bello, anche se un po' di nuvole ci saranno, ma soprattutto sempre gran caldo. Al sud toccheremo anche 35-36 gradi a Napoli, a Palermo, a Bari, quindi temperature da piena estate al centro-sud, lì si va avanti senza grandi scossoni, anche se poi anche questo ha creato i suoi problemi con gli incendi, vento forte, ecco anche il vento si calmerà per fortuna, quindi è un weekend tutto sommato discreto, su, vediamo il bicchiere mezzo pieno, dai. Va bene, mi piaci quando dai delle buone notizie, grazie Paolo Corazzoni, tremendo, buon tempo a te comunque sia, ciao caro Paolo. Buon tempo a tutti, ciao. Sentiamo momenti.